Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli dall'Europa, una stretta sul tabacco, dall'Italia l'ipotesi di una stangata sulle sigarette elettroniche. Riguardano il 28% dei cittadini europei le norme approvate dalla Commissione Salute di Bruxelles che ad ottobre dovrebbero avere il varo definitivo, un pacchetto che introduce immagini shock sui pacchetti che non potranno più essere da 10 né avere formati slim. Le sigarette elettroniche dovrebbero invece essere vendute solo in farmacia. Troppe restrizioni favoriscono il contrabbando, obietta Oreste Rossi, membro della commissione, tra quanto naturalmente si intuisce ha votato contro. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Domani non vorrei che mi vietassero la grappa al mirtillo. Tutte queste norme messe insieme, quale obiettivo puntano di raggiungere? Ridurre di un ulteriore almeno 10% il numero dei fumatori a livello europeo. Se si esagera, si rischia di favorire il mercato del contrabbando. Quindi... Sappiamo anche perfettamente quanto il mondo delle aziende che ruotano intorno al tabacco sia una realtà molto forte. Ci sono state operazioni anche di avvicinamento? Io sono stato contattato da molte persone, da molti gruppi, sia pro sia contro. In questo pacchetto sono comprese anche misure che riguardano le sigarette elettroniche. Diventano quasi come se fossero dei presidi sanitari. E per le sigarette elettroniche i produttori pensano a nuove mobilitazioni se non cambiasse il decreto che vuole introdurre una tassa del 58%. Franco Spicciarello, consulente ANAFE. Si parte da un errore di base, cioè da una parte in Italia assimilare la sigaretta elettronica al tabacco, dall'altra in Europa assimilare la sigaretta elettronica ad un farmaco. Siamo contrari a questo decreto che non avrebbe altro risultato che quello di distruggere il settore della sigaretta elettronica. Speriamo che il governo accetti la nostra proposta di rimodulare la tassa focalizzandola solo sui liquidi con nicotina. Una parte dei tabaccai sta invece spingendo nel senso portato avanti dal decreto. L'ormai quasi ex premier del Lussemburgo Jean-Claude Juncker, dopo un ultimo consiglio dei ministri convocato in questi momenti, si recherà dal Granduca Henri alle 14.30 per presentare le sue dimissioni dal governo, la richiesta di scioglimento anticipato del Parlamento in autunno, quindi una richiesta che porterà alle elezioni nel mese di ottobre. Insomma, una figura importante anche nella storia recente dell'Europa. Sentiamo gli aggiornamenti da Beda Romano. Sono dimissioni significative quelle che il primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker annuncerà oggi, e non solo perché riguardano un grande vecchio della politica europea in carica alla guida del suo piccolo paese dal 1995. Il 58enne lussemburghese è stato il trait d'union tra la Germania e la Francia in questi 15 anni, soprattutto nel pieno della crisi debitoria. Per 7 anni Juncker è stato anche presidente dell'Eurogruppo. Uomo ironico e sensibile, è parso in alcune occasioni in difficoltà nel gestire un consesso di ministri delle finanze nel quale prevalevano gli interessi nazionali e le tensioni personali. Recentemente, in piena conferenza stampa, ha spiegato, con una buona dose di coraggio, che un uomo politico deve saper mentire quando necessario. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E parlando di Eurogruppo, il nuovo presidente, l'olandese Dijsselbloem, dice in un'intervista allo Figaro: non sono favorevole a una presidenza a tempo pieno. Mi hanno incaricato di questa responsabilità, ne sono onorato. Se i ministri decideranno altrimenti, sono pronto ad adeguarmi. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare il concorso Waste Smart, indetto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente per invogliare i cittadini a produrre idee su come raccogliere, riciclare e riutilizzare i rifiuti. L'iniziativa fa da collante tra il 2013, anno europeo dei cittadini, e il 2014, anno dell'economia verde. Per partecipare è necessario realizzare una fotografia, un breve video, oppure anche una illustrazione o una vignetta che rappresenti un modo diverso di trattare i rifiuti. Ho un'idea di come possa essere in futuro la gestione dei rifiuti da parte dell'Unione. Trovate più informazioni sulla home page dell'Agenzia Europea dell'Ambiente www.eea.europa.eu. E naturalmente ritrovate tutto su radio24.it. Da Carmelo Lauricella in regia, da Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'appuntamento domani poco dopo le 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.